Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Come avete sentito, un avvio di settimana contrastato per le borse europee, con Francoforte in buon rialzo, Londra e Parigi che oscillano intorno alla parità, Milano debole. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della giornata sull'andamento delle borse. Ma ora parliamo di Erasmus, probabilmente il più noto tra i programmi europei di formazione, forse il più noto in assoluto. Per il settennato 2014-2020 si è temuto appunto per le risorse di finanziamento di questo programma di studio. Ora Jordi Curell, che è il direttore responsabile per il programma appunto di formazione della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea, dice è vero, è un periodo complesso, ma i soldi ci sono e anzi Erasmus aumenta, diventa per tutti. Sentiamolo. La situazione è che non c'è motivo per preoccuparsi. Abbiamo proposto un programma nuovo, ispirato fortemente del programma attuale Erasmus, ma che vogliamo chiamare Erasmus for All, perché va più lontano che l'Erasmus attuale, e abbiamo questo della Commissione, abbiamo questo un aumento del bilancio del 70%. Non sappiamo se i ministri e il Parlamento accorderanno questo aumento, ma sappiamo che almeno 40-45 in più sarà dato. Quello che cambia qui è questo enfoque del lifelong learning. È molto importante avere un'istruzione scolare buona, una formazione professionale buona, high education anche buona, e dopo anche per gli adulti che hanno già entrato nel mercato del lavoro è importante continuare questa istruzione. Il governo italiano desidera che alla Serbia venga accordata una data d'avvio del negoziato di adesione all'UE nel vertice europeo del 28 giugno. Roma intende fare ogni sforzo per convincere quei paesi dell'Unione Europea che abbiano ancora eventualmente dei dubbi. Il tabacco, nuove misure per combattere il commercio illecito, il contrabbando di sigarette che danneggia l'Europa per centinaia di milioni di euro. L'industria del tabacco però sembra ancora influenzare la Commissione. Sentiamo. Una perdita secca di 10 miliardi ogni anno per gli Stati membri e l'Europa a causa di tasse e dazi non pagati. La nuova stretta europea sul tabacco è una buona notizia, ma il rapporto tra l'industria del settore e la Commissione europea è evidente fin dalle dimissioni del commissario per la salute e la politica dei consumatori, John Dalli. L'influenza dell'industria del tabacco è riuscita a penetrare anche l'ufficio antifrode europeo, ha finanziato il lavoro degli investigatori, un successo perché l'ufficio ha sequestrato 70 milioni di sigarette di contrabbando e arrestato 35 sospetti, ma questa collaborazione porta chi investiga un po' troppo vicino all'industria del tabacco, come spiega Leonardo Palumbo, coordinatore delle politiche per gli affari europei. Prima delle dimissioni del commissario Dalli abbiamo visto un crescente impegno da parte dell'industria del tabacco, soprattutto su alcune delle misure come quella del pacchetto uguale per tutti col brand omogeneo o la tassazione. Abbiamo anche visto un loro maggiore impegno in settori come quello del tabacco da masticare e delle sigarette elettroniche, che sono venuti alla ribalta solo per la direttiva sul tabacco e normalmente non sarebbero stati discussi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Tattia e oggi vi presento il concorso per la migliore vignetta dedicata all'Unione Europea nella stampa italiana. Promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con il sito presseurope.eu e il settimanale internazionale, il premio nasce per sensibilizzare i vignettisti sui temi europei, anche attraverso l'uso dell'ironia, e stimolare l'interesse dei cittadini per la vita politica dell'Unione. Per partecipare è sufficiente aver pubblicato una vignetta a tema su una testata professionale cartacea online nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 24 giugno 2013. Per i primi tre classificati in palio premi da 1.000, 1.500 e 2.500 euro. Per informazioni ec.europa.eu/Italia. E naturalmente radio24.it. Siamo in conclusione. Da Filippo Aureggi in regia, Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'appuntamento con Europa 24 domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.